per me è un Gilera Runner SP70. Io non lo so, è un gran casino. Senti qua. Non ho visto niente di questi motorini. Vero. Incredibile come si riesce a passare da un pezzo rap a una marmitta a Pinasco, no? Com'è vero? Beh, devo dire che... Io alzerei anche un po', che dici? Aspetta, sentiamolo un po' più pure, eh? Senti com'è bello ingolfato qua. Guarda, guarda, guarda la benzina. Abbassiamo. Abbassiamo questo motorino e ascoltiamoci. Bonnie and Clyde. Serge Gainsbourg. Risentito e rivisitato. Senti che bello. Jesse James. Comment il vécu? Comment si che armonia ricreiamo? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Ascoltate questa bellissima lingua, la lingua francese che abbiamo studiato tanti anni. Ecoutez l'histoire. Bonnie and Clyde. La Francia, un'identità unica e la storia. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Un fiume così grande, elle di cose interessanti. Son prénom c'est Bonnie. Parlare francese vuol dire farsi capire dal 50% del mondo e con l'inglese altri buoni amici, altri paracadutisti veramente simpatici. L'altro 50%. Insomma, un trio che l'America invidia, che i Balcani vogliono, che l'Africa desidera, che l'Asia ha. Un modo per costruire, per inventarsi, per far divertire. Con quel mare così simpatico. Con quella nazione, con i portoghesi. Sono bellissimi i portoghesi. Sono lì che ci sono delle belle aziende, ci sono dei ragazzi presso, le qua, presso i quali vado, ma molte altre aziende, ne ho tante. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bernie Parker. Questa è robina da fighetti, Fa bracciola. Però molto lavorata bene, insomma, raffinata, si ascolta. Bisogna riconoscere che c'è dell'estro, ecco, dell'estro. Esatto, riconoscitori. Questo lo possiamo essere veramente tutti. Sono scoppiate le cuffie qua, eh. Mai dire che ci vuole attentare. Gianni, vogliamo ricordare i contatti? Magari qualcuno ci vuole dire qualcosa, insultarci. Sì, allora, Radio Città Fuggico intanto naviga in internet con www.radiocittafuggico.it. Eccezionale, andatevela a vedere perché lì scoprirete un pezzo di Bologna, della Bologna che abbiamo detto che è leale e legale. Sì, Gianni, poi 103.100 ha un telefono 051 34 6458, per le chiamate in diretta. Sì. Ha un modo per mettersi in contatto con le persone, offre un numero. Sì. 331 809 494. Sì. Ha un telefono in diretta 051 24 24 39. Sì. Ovviamente ha una redazione. Vogliamo dire il numero anche della redazione, Gianni? Eh sì, diciamolo. Era anche un fax, 051 7401 371. Mentre il fax di redazione, in questa sfilza di numeri che vi dovete scrivere e segnare per contattarci, vogliamo darti anche il fax 051 6393 392. E concludo con info/radio.cg. Vorresti dire che è il telefono di tua figlia? Cioè, che sfigliato. Sei sfigliato, grande Gianni. Torniamo, Gianni, le torniamo consonanti. Torniamo alle numeri, fanno la lingua di tutto il mondo. Gianni, torniamo alle sonorità trash. Allora, ritorniamo a far capire quello che è un capannone. Chi è la regina del trash italiano? La santa. No, la santa, quella più per te. Ma no, più santa proprio. Santa subito. Caselli. Dai, io zia, mi faccio sempre informare la mi zia di tutte le zie. A intelligence il service caschetto da di tutti i caschetti. La Rita e dalla Fabrizia. Ma che la Rita, dai, della Sandrina. Che cazzo, Gianni, però. Chi è la zia di tutte le zie, la signora di tutte le signore? Ma no, più Loredana è una santa. Il primo maggio Raffaella la santa subito. Ho trovato una bellissima cover di Raffaella. Sentire i bambini questa comicità simpatica radiofonica farà divertire anche e poi la metteremo alla Rai, la faremo ascoltare. No, ma senti, abbinata a fumetti o altre cose. Senti che pezzoni si sparava la Raffaella che faceva cover ballerecce. Andiamo a sentircela. Amor, estoy sola aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña. Il sintetizzatore. Arti di belli questa imparatevela che diventerà un pezzone. Ma minchia, chi era Righiera? No, questi erano i Los Tormentos, non mi ricordo come si chiamavano, però è una cover, però sì, sì, senti no, che sound. Poteva sembrare il sound di Righiera, no? Falla sentire. Estupelo, son tus besos, me estremezco. Praticamente sta roba è la stessa roba che ha fatto Bob Sinclair con Raffaella Carrà, stessate. E Raffaella Carrà qui ha rifatto un pezzo degli anni 60 in versione dance anni 80, Bob Sinclair invece ha preso un pezzo di Raffaella Carrà degli anni 70 e l'ha rifatto in versione dance 2010. Ripeto. Chi la fa l'aspetti, giusto Gianni? Esatto. Sì, comunque denota tutti i suoi anni, eh. Pensa a questa a remixarla adesso. Potremmo remixarla Powered by la Trina Tremens. Già ce l'hanno fregata, l'hai detto. Dovevi dirlo a microfono spento, cazzo. Ma Invece, secondo me, è un invito a tutti. Black Bloc non l'abbiamo mica inventata noi, eh. Anzi, Fabrizio, facci un remix di questa canzone, bella techno. È finita. Oh, a Gianni di qualcosa, emergenza. De corsa, famo qualcosa per unirci di nuovo a voi. Pipì, dove sei tu? Che disdetta, ho perduta la cagnetta dell'amata Marietta. Pipì, dove sei tu? Presto, un manifesto con la mancia competente da pagarsi prontamente a chi trova quell'ingrata ad una cagna svelacchiata. Pipì, dove sei tu? Quella cagna maledetta e la mia disperazione, ma la devo sopportare per amor della padrona. La mia dolce Marietta l'altro giorno me l'ha detto: se mi fai qualche dispetto, se mi perdi la cagnetta, non ti far vedere più. La tenevo per il laccio, l'ho perduta e come faccio? Chissà dove si è cacciata quella cagna spelacchiata. Pipì, dove sei tu? Ci tuffiamo assolutamente negli anni 30, nei primi anni 30. Pipì, questo ormai è un po' il nostro beniamino Rodolfo De Angelis. Dove sei tu? Ho perduto la cagnetta. Per la mancia competente è venuta tanta gente con cagnette d'ogni razza, ma non c'era quella pazza. C'era così tanta crisi. Pipì. Che siccome avevano promesso una mancia che la ritrovasse, si trovarono la fila di gente davanti. Questa è proprio una disdetta, ma che colpa ce n'ho io? Di gente con cani trovati. Che volevano la mancia. Pipì, dove sei tu? Oh mia dolce Marietta, dammi retta, fammi entrare nella casetta, fammi entrare nella stanzetta, anche senza la cagnetta. Questa è stata una vendetta, te lo giuro Marietta, della cagna maledetta che è scappata per dispetto dell'amore mio per te. Quella cagna ingelosita s'era proprio inferocita, ed allora la chiappacani me l'ha presa dalle mani. Pipì, dove sei tu? Sono bracciola, fa delle smorfie. Non riesco a capire se sta canzone c'ha dei sottintesi sessuofobi o cose così. No, crisi. Praticamente, siccome è il cantante della crisi, lui diceva che bastava mettere una mancia per il ritrovamento di un animale, che trovava davanti alla porta decine di persone che cercavano di rifilarti un animale diverso per avere la mancia, capisci? E adesso questa è crisi, eh? Sor Braciola vi racconta una storia. Siamo nella prima metà degli anni Ottanta. Le televisioni private hanno cominciato ad agire sul territorio. C'è che con l'aiuto della massoneria è riuscito ad arrivare dove è arrivato, e chi si era accontentato di meno, facendo una stranissima campagna sull'immaginario dei bambini, delle famiglie nel Lazio. Quest'uomo ha cominciato con un mobilificio, non so ancora se è aperto. No, era una sorta di aiazione, però nella versione laziale. Come si chiamava? Lui si chiamava Ugo Rossetti. Questa la sto per dedicare a tutti gli amici romani, perché sicuramente il tipo se lo ricordano. Perché il signor Ugo Rossetti, per pubblicizzare la sua città del mobile Rossetti, non... non faceva solo degli spot, ma faceva proprio delle trasmissioni televisive, soprattutto per bambini. Non erano proprio, erano una sorta di telefilm girati dentro alla città del mobile Rossetti, ma con la storia. Cioè, incredibile, a un certo punto c'erano tipo Antonio e Cleopatra che andavano a comprare i mobili perché si dovevano sposare insieme al faraone e la faraona, che poi litigano, però Ugo Rossetti, sindaco della città del mobile, fa fare pace ai faraoni e Antonio, così si sposa. E tutte queste cose in, gogliate. In che anni eravamo? Qua penso che siamo fino al massimo al 1987 massimo. Penso, ma tutti lo conoscono a Roma. Poi la domenica, soprattutto il pomeriggio, che faceva Ugo Rossetti? Un genio. Praticamente, invece di organizzare un baby parking in maniera che i genitori, stiamo parlando di metà anni 80, proprio, che i genitori comprassero i mobili senza che gli rompevano le palle i figli, esatto, non hai organizzato solo una situazione di balletto, hai organizzato proprio una trasmissione per bambini. Che era, praticamente tu, c'era la televisione, c'erano tutti questi. Tutti questi ragazzini, ci stava un pagliaccio che non mi ricordo adesso bene come si. E poi la cosa più importante di questa trasmissione era questa mega macchina gigante che tu prendevi a martellate e faceva uscire un gioco di questi proprio da bancherelle, roba da 500 lire ai tempi, forse 200 lire. E questa macchina si chiamava Sputaggio. Ora, chiaramente, la bambina più bella della città del mobile Rossetti era la nipote di Ugo Rossetti, chiaramente. Che poi ha continuato, non so che fine abbia fatto. Probabilmente Ugo Rossetti penso sia morto, penso che ci ha avuto anche dei problemi, ma non voglio prendere querele. Che cazzo, chi ci si inculano per le querele? È bellissimo. Va bene, questa la dedichiamo a tutti quelli che amavano le filastrocche di Ugo Rossetti. Oh, un intro che penso neanche. Cioè, dai, vi racconto una storia. Quell'intro lì hai fatto, deve essere un pezzone. Pretendo il pezzone. Che senti come scrocchia. Magari non come Orzoro, ma qualcosa di simile. Abbastanza. Questa è Deborah. Dell'arcobaleno della vita. Ah, tu ci sei proprio rimasto sotto, mi sa. Segno con amore, metti cuore, perché suonate. Però. Tra le nate, è un po' graffiato, forse. La felicità. Quella ci fa ingolosire. Il ritornello spacca. Nonno Ugo, questo grande amico sputa giù. Era la macchina che sputava. Ho inteso. Tra uno scoppio di popcorn. Senti la seconda strofa, senti che bella. Mixami questa! Sputa Gio! Un saluto a DJ Brenno, naturalmente, noi alla prossima ce l'abbiamo qui, alla prossima ce l'abbiamo qui. Questo disco, pensate, l'ho comprato a probabilmente 500 lire al mercato di Via Sannio, vicino a Porta San Giovanni. No, vicino a Piazza San Giovanni, proprio. Come siete autoreferenziali voi romani. C'è presente, cazzo, vicino la Queen, dove ci sono stati scontri sabato, da quei parti lì. Senti come il ritornello spacca, però. è una chicca come sempre. Io vorrei rispondere a questa tua così sicumera bambinesca con altrettanta sicumera, e a Gianni verrà qualche capello bianco in più. Have a drink on me. Veramente non siamo riusciti a interromperli prima. Have a drink on me dal, ma sembra incredibile poter annunciare Back in Black. Sentite Gianni come scalpita poter dire Back in Black, Have a drink on me. Erano gli AC/DC, un album che uscì nel 1980 e che sì, io l'ho visto costruire. Divertì, mi ricordo. Conobbi dei gran simpatici amici di mio fratello, tra i quali c'era Livio. Senti Gianni, ma vogliamo fare una riflessione inutile sul 15 ottobre a Roma? La riflessione di quegli spot, ma è inutile però, del ma... di scontri, vai, Gianni, vai. Ripresentati. Parlami di Arpelliccia. Chi è Arpelliccia? Mi danno, aspetta, ma mi danno semplicemente l'intuito di qualcosa che non va bene, giusto? Io non ci andrei mai. Neanche Giovanardi avrebbe detto una cosa così, eh? Allora, Gianni, noi dedichiamo questa ai bambini della rivoluzione. Fate un po' come Giovanni, Gianni. Pezzone assoluto questo, it's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now, now, now. Mi piacciono questi 45 che girano qua sui piatti della radio. Questo piatto su cui sta girando questo pezzo era di un mio caro amico, si chiama Maitake, e era solito metterci della musica trance ai party go, invece adesso ci sta andando T-Rex e ci sta andando veramente ogni genere musicale possibile e immaginabile. Noi invece adesso andiamo con un pezzo che non è neanche questo bisogno di presentazioni, vero Gianni? Ah no, assolutamente, non che perdiamoci tempo. Viste mai belle sexy meglio di lei, ma a me sembra che lei è un po' troppo giovane per te. Ti capisco e come no, se però soffrir non vuoi. Radio Rock and Roll, fuggi via. 103.1 Radio Cetamugito, per tutti noi, per ballarlo. All'altra puntata di Cantano è diventato famoso per le canzoni. Già io ti vedo passeggiare fra la gente insieme con lei. Lo so, ma sto pezzo collegato, mi impazzito. Ci pensa già, conosce me, perché dei figli, una bella auto, una grande casa, una tenuta. Che tua figlia è. Miei cari amici, alla felicità non c'è soldo, basta conoscerla. Dovete parlarne tutti. E tu che non ti accorgi che le sta cuocendoti a fuoco lento, anche se poi chi ama di più fra voi due è ancora lei. Finché un giorno ti risveglierai come un pugile un po' suonato dal gran vuoto che ti ha lasciato. E abbiamo detto siamo effettivamente divertente, cotta al dente. Siediti e tu. Adesso ti mandiamo un tecnico che ti aggiusta il microfono. Grazie, grazie. Gianni, non è un vibratore, eh? Grazie, grazie. Magari fosse vibrato. Magari. Quando doveva vibrare, vero? Non ha vibrato un cazzo quella volta, ti ricordo. Lo so, ma non si possono trasmettere tutte le esperienze, vedi? Vibrare, ma non sempre. No, non trasmettere vibrazioni che siano negative. O vibrative che siano negative. Il forte di tutto questo è che siamo veramente dei rock loristi. Già io mi vedo. Dei rock loristi. Esatto, dal rock and roll. Insieme con lo pratichiamo con la lingua. Ma sembrano le chiacchiere che si fanno in mezzo a una festa che non si dà un cazzo a caso. Sull'Etna. Quasi morti e innamorati. Puoi guardarselo da lontano. La neve, mentre scuole. Ah, lo so. Il rischio di infiammazione. Il bianco col rosso. Noi invece siamo dei cugini. E tali siamo. Il cane e il vulcano, la neve, la neve, il cielo e il cielo. Professor Bracciola, non mi delude sui fondamentali comunque. Vado a rispondere a Celentano di Sorodon con un Giorgio Gabber in Lorgia e carcolate che non l'ho mai sentita. Notevole, bravo Sor Bracciola, bravo. A copertina chiusa. Ero lì in un'orgia, in mezzo a della gente che conoscevo poco e che non era molto attraente. Ero in un'orgia, ma non c'avevo voglia e allora me ne stavo un po' in disparte per rappresaglia. No grazie, senza complimenti, il genere non mi interessa. Oddio, se proprio insiste, se dice che è una scommessa. Ero lì in un'orgia, facevo qualche cosa, ma non mi ricordavo una serata così noiosa. No, ricreda, mi diverto molto, sono solo un po' in soggezione, però mica le dispiace se accendo la televisione. Ero lì in un'orgia e per primo mi fermo, ma man mano anche gli altri sono distratti dal teleschermo. E così tutti nudi sul secondo canale vediamo un film d'amore un po' vecchiotto, sì, ma niente male. A me piace perché alla fine i due si sposano. Ah sì, anch'io sono per il lieto fine, mica come quei film moderni lì che non si capisce assolutamente niente. In fondo sono un sentimentale. Scusi tanto, non ho mica visto le mie mutande. Grande Gabber. Grande, peccato che ha fatto successo Celentano. Ma cioè, infatti... è quello che si è venduto di più Celentano che... Grande, una persona squisita Adriano. Sì, talmente simpatico. Le canzoni, i film che ha fatto. Un artista. Ma lo sai che è vero? Guarda, Bingo Bongo è un gran film. Ma sì, è perché Yuppidu che mi ha lasciato. Oh, lo sai che ancora non l'ho visto Yuppidu, adesso lo hanno rieditato, Yuppidu, lo hanno aggiustato, l'hanno mostrato. Va bene. dopo questo sfogo procelentanista. Veramente, sì, sì, veramente. Degli espluati. Fai qualcosa. Che ci fanno vabbè, proprio così. Insomma, allora, Gianni, noi per bravi te, ragazzi. Gianni, è tutta tua questa. Grazie. The fragrance of love in the air, it's penetrating far deep in my heart. And the sun will be burning the sky, and beside the day she went away. Yuppie-doo, yuppie-doo, yuppie-doo. Vi consiglio il video su YouTube, decisamente. È un celentano, guarda, a metà anni 70. Avevo anche una maglietta io. E dove veramente lui dava il meglio di sé a livello di primate. Lui secondo me era veramente l'anello di congiunzione tra il bonobo e l'essere umano. Non trovi, Sor Bracciola? No, ma infatti bingo bongo c'è vissuta, tutto. Se l'è vissuta bene, secondo me, Celentano, dai. Guarda, bingo bongo è un film ambientalista che spacca, comunque. Assolutamente. Ma ante litteram lui è stato, assolutamente. Cioè, diceva cose che... Il ragazzo della via Gluck. Solo per ricordarne una. Serafino. Già. Era troppo bello quando negli anni 70 gli facevano fare il romano. Ha fatto un tot di film, ha fatto il film di Rugantino, capito? È vero. Cioè, Celentano che parlava in romano era una cosa. Se guardate Storia d'amore e dei cortelli. Max Tortora che parla in milanese. Comunque sono 7 minuti, non so, vedete. Ho una storia. Un'altra. Dai. No. Siamo nel 1966, in piena guerra fredda. Le due potenze mondiali, blocco sovietico e Stati Uniti d'America, si contendono le sorti del pianeta. C'è un oggetto in particolare che fa sì che queste due potenze possano così vilmente decidere le sorti del pianeta: la bomba atomica. Gianni, dicevi? Ho detto te credo. La bomba atomica. Ora, ci hanno fatto scordare che migliaia e migliaia e migliaia di testate nucleari sono puntate da uno stato all'altro, facendo finta che questa guerra fredda sia finita. Però poi ci stanno le centrali nucleari che si sfaldano e Tokyo, che ha una radioattività fuori norma ormai da qualche mese. Non si parla più di Fukushima, no? Soroton! No, non se ne parla più, però se tu provi a fare le pellicole. Provate a voi. Sviluppare, non ci riesci più in Europa. Oggi che ridere. Praticamente Yahoo, no, per come esca, per chi non ha un cazzo da fare, mette le notizie a metà, no? Mette le notizie a metà. E c'era questa notizia, quelle che ti fanno venire la curiosità, no? Così tu poi vai, clicchi e loro vendono i spazi pubblicitari di quella pagina. Comunque, c'era questa notizia che era stato trovato una nuova razza di squalo con un occhio. Uno squalo ci sono. uno esatto, la cosa è vera. No. Ha trovato nuova razza della, vedi, l'ha visto pure Fabrizio. Nuova razza di squalo ciclone. Era la cultura di Gutenberg. Ho pensato, ok, la solita una cazzata, oppure simpatiche dove ce la passiamo veramente bene. Tutta l'acqua radioattiva che è uscita da Fukushima in tutto quel delirio che c'è stato, evidentemente ha avuto degli effetti. Basta, piena guerra atomica 1966, loro sono i giganti. Grandi, Tenco gli diceva che potevano sparare pallottole, invece si limitavano a sparare i fiori. Eh? Capito come? Cioè, però via. Fiori. Vai. Come me? Vai. Sì, perché io familia. Noi non abbiamo più nessun amore, né una casa da difendere dai mali del mondo. Ma tu lo sai che io ero in classe con uno dei figli dei giganti. Gigantini. Uno dei grossi, uno dei primi fulminati che ho incontrato nella mia vita. Drogato a 13 anni. Casinaro. Disastro. Wow. Simpatico ma un disastro. Come? Ha fatto spuntare la radio per te. Ma certo, sono ricordi di gioventù. Questa è delazione. No, assolutamente. La delazione è una brutta storia. Soprattutto in questi periodi. La tua è paranoia invece. Tema. Bello delare dei propri compagni di classe. Le medie, dai. No, del liceo devo dire. Noi vogliamo che venga presto. Paura per noi. Fedeltà dei tuoi dischi. Veramente, eh? Vabbè, adesso senti, io così, tu ti muori così, io nasco così. Va bene. Cosa dice Gianni? Questi eventi cataclorici. Potresti parlare a tempo, per favore? Potrei anche inventarmi un tempo. Tempo in cui parlare. Tempo. Le cose non erano così. A tempo. Sì signore, ho tempo. Yeah. concediamo da 103.1 Radicito per una qualsiasi cosa al mondo in cui abbia indovinato veramente. Ad essere gentile. Radicito, Radicito che è sobria. Il modo di essere anche una grande casa comando. Molto bello. Quando si espande, cari amici, giunge presso di noi. Include nel suo processo di felicitazione. Mi è duopo ricordare che questi sono i Moloco e Gianni è entrato con un meraviglioso parli loco talk, slow rap, blues su questo brano che comunque è perché il parlato musicale Fede come lunga. Tu ben sai things to make and do è sempre molto bello things to make and do pure mama. Pleasure seeker da trasporto bisogna prendersi sempre in scatola portati da altri con etichette. Questa è la storia delle scatole. Chi le ha le bolle, chi le sa portare, sa tenere contabilità automobilistica veloce e di grande talento. Operatori come me, a me riesce tutto. Lavoro mentre ve ne parlo le mie labbra pensano a voi. Ci siete salutati di tutto. Fatevi una carezza. Iniziate a pensare cosa vi piace di più. Parlate. Vostro libero servitore. Certo, a me piacciono che le cose vadano bene. Sono veramente contento di dove lavorate, della vostra azienda. Così musicalmente, rock and roll. Ma non rido, perché io non rido proprio. Mi complimento con voi. Parto veramente da bomba atomica. Solo il suono mi segue. Sì, Bologna veramente. Il mondo cinese femminile. Maschile. Sono le due altre quattro lingue. Così. Never been too keen, a timekeeper. Show me your tricks, you give me other people. I'm a pure new pleasure seeker. Give me new kicks, I wanna go deeper. Never been too keen, a timekeeper. Show me your tricks, you give me other people. Be a crime against passion, not the itch that eats. Oh, don't ask, can it happen? Nice. This is G. This is Z. All we have ever wanted, all we will ever need. Nothing can take its place. It's written all over. Ce ne sono migliori. Credere nelle cose. E di divertirsi con loro. Ve lo dico sinceramente, come fare un puzzle. Lo dico ai grandi cervelli. Ma lei crede un impegno. E adesso? adesso è arrivato il momento per i bambini. Mettiamo una canzone prima per le bambine di 30 anni. Saluto tutti i bambini, vi voglio veramente molto bene. Adesso per le bambine. Gianni, è l'unica cosa che ti ho detto non devi dire in radio. I bambini. La quale? Non lo devono sapere. Riveduta e corretta. Gianni. Perché? Perché devo vincere io. Ma questo io. È per le bambine di 30 anni. 30 anni. Perché bambini devi far di sapere a tutti? Per Diana. Lì nessuno, solo io, Valeriani. Al voler bene proprio. Dopo l'intensità ci pensate voi quando non ci vediamo. Ma proprio voler bene. Per tutte le bambine. Più attenti avranno notato che non è la versione originale, questo perché Mediaset non rilasciava nessun diritto alle altre piccole case discografiche. Questo era Bimbo Mix, che ormai dopo la nascita di Five Records non contava più un cazzo e doveva fare le cover delle canzoni di cartoni animati. Questa è l'anti Cristina D'Avena. Cristina Lavana. Come si chiamava? Cristina Lavana. Giovanni Rana. E invece volevo ricordarvi. Vi ricordate l'uomo tigre? Dai, l'uomo tigre, quello che non sapeva mai che faccia avesse. Catch, combattimenti in Giappone a cavallo 70-80, ai tempi dell'uomo da 6 milioni di dollari, per intendere, per i Wonder Woman. Bello relegare le epoche storiche a dei serie alla televisione americana. Bello. Mi ricordo l'epoca dell'A-Team. Sì, bravo, bravo. All'epoca di Happy Days andavano le Timberland. Sì, si può tutto fare, fa tutto un... Quindi si apre di cadere nel costume più becero. Guarda, mi ricordo i tempi di Beverly Hills. C'era uno turbo, ti ricordi? Collegamenti. Che poi i nostri ricordi sono tutti votati a migliorare il fatto com'era, no? Assolutamente. Quindi in qualche modo sembra che il bel tempo antico esista veramente. Ma io mi ricordo questo fumetto che era l'uomo tigre, non era che un fumetto, era un cartone animato da paura. Esatto, non era particolarmente positivo, anzi era pieno di sofferenza. C'era la schiuma dalla bocca. Sì, sembravano di brutto, capito? C'era sangue. Esatto. E l'uomo tigre non sapeva mai chi cazzo era. Facevano un sacco di versi strani con la bocca. L'uomo gorilla. Yeah. dicevamo all'epoca di Happy Days.